documentazioni maniacali raccontano l'essenza di verbalizzazioni criminali all'apparenza. Che uomo figlio cane, coglione vagabondo, il districo in casino tra le trame di sto mondo. E sto modo di parlare, capire per comprare, votare per pagare con la propria integrità il massacrante peso della libertà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le penalizzazioni sui reati ambientali scegli pure dalla lista. Il nucleare, il buco nell'ozono, la sinistra. La sicurezza in mano ad individui stanchi, corrotti come tanti, a non restare fuori dal gregge. Inquinamento a schegge, trafigge ai polmoni. No, prima le elezioni e la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rappresentazioni sul teatrale, il presidente afferma: la lotta per la pace si conquista con la guerra. L'allegro terrorista si rivolta nella tomba: la mia coscienza è sporca se la libertà si sconta. Centro opposizione, qual è la differenza? Chiacchiericcio fastidioso mi trapassa la pazienza. Conflitto di interessi in un conflitto di persone che si scontrano e incontrano per una conclusione. La vittima di orgasmi della democrazia resta l'individuo il debole, l'illuso il chi che sia. E la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cosa resta e cosa resterà? Canzone che fa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ci ha tenuto a bada con la nostra ignoranza. Ci ha insegnato parole nuove e nuovi significati pervertendoli. Ci ha ammaliato con i suoi teatrini, ci ha costruito luoghi di culto e di diletto. Ci ha fatto credere che sia reale solo ciò che appare. Ci ha mostrato come sarebbe senza di lui. Ci ha obnubilato la mente con i suoi profumi. Ci ha permesso di fare ciò che voleva. Ci ha violentato la coscienza e poi nascosto la cicatrice. Ci ha ruolato e schierato a difendere i suoi interessi. Ci ha usato contro noi stessi e contro la nostra terra.